strade e motori di Massimo De Donato. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione dedicata al mondo dell'auto e della mobilità. L'Europa pensa al rilancio dell'automotive dopo l'impasse da coronavirus. Come Francia e Spagna, anche la Germania dispiega le sue forze per il settore. Fino a 9.000 euro di sussidio ripartito tra Stato e case costruttrici per le auto elettriche, quasi 7.000 per le ibride e per le altre motorizzazioni un piccolo aiuto che arriverà dalla generale riduzione dell'IVA. Intanto nel Regno Unito il governo di Boris Johnson promette di erogare con il programma di rilancio dell'economia britannica in arrivo a luglio incentivi fino a 6.000 sterline agli automobilisti interessati a passare a un veicolo a zero emissioni. E torniamo alla Germania e alla sua accelerata sulla sostenibilità per aumentare le quote di mercato delle auto elettriche e per configurarsi come paese leader nella mobilità green. Il governo tedesco ha dichiarato nel suo programma di rilancio per l'automotive che obbligherà tutte le stazioni di servizio a installare colonnine di ricarica per consentire a chi possiede un veicolo a batteria di fare il pieno. Una misura, quella di un capillare potenziamento dell'infrastruttura che potrebbe ridurre l'ansia da ricarica e convincere anche i più scettici alla transizione elettrica, almeno in Germania. Stoffel Van Dorn con la sua Mercedes-Benz EQ si è aggiudicato il titolo del primo torneo virtuale di Formula E, la competizione di eSports parallela ideata dagli organizzatori della Formula E con il supporto di Motorsports Game con il fine di sostenere l'UNICEF nella lotta al coronavirus. Le ultime due gare disputate la scorsa settimana sui circuiti di New York e Berlino, ovviamente parliamo di circuiti virtuali, hanno incoronato Mercedes, secondo posto per Nissan e terzo per Audi. E continuiamo a parlare di Nissan che ha ripreso questa settimana le attività nell'impianto produttivo di Sunderland nel Regno Unito, rimasto chiuso per 3 mesi a causa del Covid-19. Punto di riferimento della casa giapponese in Europa, soprattutto dopo la chiusura del polo di Barcellona decisa nell'ultimo piano industriale, il sito ha riaperto seguendo rigidi protocolli sanitari e revisionando oltre 5.000 processi lavorativi per garantire la massima sicurezza ai lavoratori. Proprio a Sunderland vengono prodotti alcuni bestseller del marchio come Qashqai, Juke e Leaf. E a proposito di Nissan Leaf, abbiamo provato per voi l'ultima versione della full electric della Nissan, leader di vendita in Europa. Ascoltiamo la scheda. È la 100% elettrica più venduta al mondo, con quasi 450.000 unità commercializzate dal suo primo lancio nel 2010. Le linee aerodinamiche accattivanti tracciano un design semplice ma allo stesso tempo elegante ed effetto. Baricentro basso per garantire il meglio della performance e due elementi identificativi: il tettuccio sospeso e il frontale con la nuova calandra a V tipica del design Nissan. Completano il quadro lo spoiler posteriore utile a ridurre la resistenza aerodinamica, i fari a LED e i cerchi in lega da 17 pollici. Espressione perfetta della Nissan Intelligent Mobility, la nuova Leaf potenzia il propulsore elettrico con la batteria da 62 kW che promette ben 385 km di autonomia. I tempi di ricarica con una colonnina fast charge da 50 kW variano dall'1 ora e 20 minuti all'1 ora e mezza, ma si può caricare anche con presa domestica. La nuova Leaf sfoggia la più moderna tecnologia di casa Nissan. Spicca su tutto il ProPilot per una guida autonoma di tipo 2 e l'e-pedal che consente di condurre il veicolo modulando il solo pedale dell'acceleratore. All'avanguardia la connettività che consente via app di gestire completamente la vettura, dal monitoraggio della ricarica al localizzatore di auto, dal controllo delle luci e del clacson fino al supporto e assistenza Nissan. E questa era la prova della Nissan Leaf. Per un approfondimento su questa notizia, in particolare per vedere il video di questa prova, potete collegarvi al sito internet di Radio 24 all'indirizzo www.radio24.it, scegliere tra i programmi la nostra trasmissione Strade e Motori e nella sezione Auto Videoclip nel podcast di questa puntata troverete il video con la presentazione di quest'auto. E cambiamo argomento. È stato presentato all'inizio di questa settimana uno studio di Alex Partner, che è una società di consulenza specializzata nel settore dell'automotive, in cui si è fatto un po' il punto della situazione per quanto riguarda l'impatto del Covid-19 sul settore dell'automotive, con dei risultati secondo me interessanti e che apriranno un dibattito abbastanza lungo. Ne parliamo in compagnia del nostro ospite, che è Dario Duse, Managing Director di Alex Partner. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera. Allora, cominciamo con i dati di mercato. Qual è lo scenario ipotizzato dal vostro studio? Noi abbiamo previsto che la situazione quest'anno sarà pesantemente impattata dalla pandemia del Covid, in particolare l'industria, che era arrivata ad avere circa 90 milioni di veicoli nel 2019, avrà un tonfo di circa 19 milioni per atterrare intorno a 70, quindi una perdita di più del 20%, che per questo genere di industria è una perdita record, purtroppo negativa. Ci vorranno un po' di anni, 3-4 anni, per tornare a situazione paragonabile a quella pre-crisi, con una ripresa a due velocità. Il mondo cinese e asiatico, che riprende più velocemente e già ha dato segni dopo il lockdown di una ripresa abbastanza consistente, gli Stati Uniti e il Nord America in generale, che anche ha dato segni di risposta abbastanza forte, anche grazie alle campagne di incentivi, di sussidi che sono state messe in campo a livello locale, e l'Europa, che riprenderà con un pochino più di lentezza e di fatica e che impiegherà circa 3 anni o 4 per tornare comunque a dei volumi leggermente inferiori a quelli della pre-crisi. A quelli pre-crisi. Su questo quanto impatteranno gli incentivi che alcuni paesi europei, e ne abbiamo parlato anche poco fa, stanno studiando per aiutare questo mercato? Gli incentivi in questa fase di vendite depresse e di contrazione fortissima della domanda sono un elemento fondamentale per accelerare la ripresa e consentire a tutta l'industria di sostenere un tonfo dei volumi degli ordini di grandezza di cui abbiamo parlato. In Nord America e anche in Cina questi incentivi sono stati prontamente attivati e sono relativamente forti e quindi contribuiranno a sostenere il recupero della domanda. L'Europa, come spesso, ha una complessità geografica legata al fatto che non è un mercato solo, ma sono di fatto un coacervo di diversi paesi, ognuno dei quali ha un certo grado di libertà, e quindi la situazione in Europa è un pochino più differenziata tra Francia, Italia e Germania, con la Francia e la Germania che progressivamente stanno preventivando incentivi importanti. Sull'Italia qualcosa è partito in termini di supporto, è auspicabile che come tutta l'industria sta chiedendo, ci sia un ulteriore aiuto. Tra l'altro, per quanto riguarda l'Europa in particolare, quest'anno è anche il primo anno in cui entra in pieno vigore l'applicazione delle norme sulle emissioni, che presuppongono una significativa riduzione della CO2 emessa dalle flotte immesse sul mercato, e in questo contesto in Europa, dove le motorizzazioni diesel, che hanno strutturalmente un contenuto di CO2 emesso più basso rispetto alle motorizzazioni a benzina, perché il motore diesel è strutturalmente più efficiente, il calo di queste motorizzazioni è unito all'aumento del segmento e delle carrozzerie SUV, che sono generalmente più pesanti e meno aerodinamiche, ha amplificato il problema della riduzione della CO2, che di fatto negli ultimi 3 anni, per effetto di 2 fenomeni che ho citato, ha smesso di diminuire ed anzi è leggermente ricresciuta. Quindi, nonostante la crisi del diesel, abbiamo un aumento della CO2, ho capito bene? Sì, proprio anche per la crisi del diesel abbiamo un aumento della CO2, perché il diesel è un motore che emette una quantità di CO2 inferiore a parità di caratteristiche rispetto al motore a benzina. La spinta verso l'elettrificazione che la regolazione europea ha portato avanti e sta portando avanti giustamente, con l'obiettivo di lungo periodo di ridurre le emissioni di CO2, siccome fino adesso l'offerta di veicoli elettrici è relativamente limitata e focalizzata su veicoli che hanno costi elevati, la diminuzione del diesel ha portato a un aumento delle motorizzazioni a benzina, al contrario di quanto, diciamo, sarebbe si sperava, stato auspicabile, certo. Esatto, perché si sperava che questo calo fosse compensato dalle vetture elettriche o elettriche plug-in. E invece è stato compensato da veicoli a benzina e quindi è aumentata la CO2. Il Global Automotive Outlook di AlixPartners, cioè lo studio di cui stiamo parlando, è giunto quest'anno alla sua 17ª edizione. È successo altre volte in passato di avere una situazione così disastrosa? La crisi, la grande recessione, la crisi del 2008-2009 è l'ultima crisi forte che l'industria ha subito. In quegli anni tuttavia l'industria ha perso l'8% dei volumi, perché era una crisi sostanzialmente legata ad aspetti finanziari e, a differenza della pandemia del Covid-19, impattava sostanzialmente uno degli aspetti fondamentali, e quindi la disponibilità economica. Il Covid invece ha avuto l'unicità di impattare sia la domanda che l'offerta, perché la crisi, i fermi, i lockdown hanno anche implicato notevoli problematiche produttive, e l'effetto oltretutto non sincrono della crisi nei diversi paesi e nelle diverse regioni ne ha amplificato ulteriormente l'effetto. Quindi ci sono state crisi in passato importanti, nessuna nella memoria di diversi decenni è stata infatti dell'ordine di grandezza. Devastanti come questo. Bene, salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite, Dario Duse, Managing Director di AlixPartners, che ci ha presentato i risultati di questo studio, il Global Automotive Outlook di AlixPartners. Ci fermiamo per qualche minuto, ci risentiamo tra pochi minuti per parlare di case costruttrici, ma con una sorpresa: non ci occupiamo oggi di veicoli leggeri, ne parleremo tra poco. Ciao, sono Enrico Pagliarini. Mi sto domandando come sarà il mondo fra 14 anni. E allora spostiamo in avanti l'orizzonte e vi presentiamo 2024 più 10 interviste sul futuro. Una nuova serie solo in podcast su radio24.it. Strade e motori. Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, nello spazio dedicato alle case costruttrici, questa volta usciamo un po' fuori dal seminato, nel senso che ci occupiamo di veicoli un po' più pesanti rispetto a quelli di cui ci occupiamo solitamente. Parliamo di veicoli commerciali e di truck, e lo facciamo in compagnia di Maurizio Pompei, che è il presidente dell'AD di Mercedes-Benz Truck Italia. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera, grazie Massimo. Allora, facciamo un'eccezione questa volta, ed è la prima volta che succede all'interno della nostra trasmissione, perché vogliamo accendere un po' un faro su questo settore, un po' perché è un settore chiave per la mobilità delle merci nel paese, ma un po' anche perché è stato il settore protagonista di questa emergenza degli ultimi mesi. Grazie all'autotrasporto noi siamo riusciti ad avere nelle nostre case, nei supermercati, sotto casa, tutti i generi di prima necessità, i generi alimentari, i farmaci nelle farmacie, insomma, come ricordiamo spesso in altri ambiti, solo grazie all'autotrasporto che probabilmente questo paese è riuscito a reggere l'onda d'urto di un'emergenza così, così importante. E allora facciamo un po' il punto su questo settore. Pompei, cominciamo da una notizia di qualche settimana fa, in realtà subito prima del lockdown, e cioè dell'accordo, della joint venture fra Mercedes-Benz Truck e Volvo per la realizzazione di un veicolo a idrogeno. Quindi anche il mondo dei pesanti si avvicina a questa che probabilmente sarà la tecnologia del futuro. In cosa consiste questa joint venture? Allora, fondamentalmente faccio una piccola premessa, nel senso che gli investimenti, specie in nuove tecnologie, sono degli investimenti molto importanti, chiaramente, che vanno nel lungo periodo. Allora, Daimler ha una grande esperienza in termini di sviluppo di nuove tecnologie, anche di idrogeno, perché sono più di 10 anni, diciamo, che si lavora su questa nuova tecnologia, e ci si lavora chiaramente per arrivare a mezzi che siano efficienti e quindi quindi affidabili e sostenibili pure, no? Perché l'importanza di una nuova tecnologia è far sì che arrivi all'utente finale, cioè all'utilizzatore, un mezzo che poi consenta un utilizzo nel rispetto, diciamo, delle economie delle singole, del settore, per l'appunto. Un settore, quello dei trasporti, che vedete, è molto importante, si è rivelato strategico in questo momento, e però è un settore anche dove le efficienze sono importantissime, sia in termini di consumi ma anche in termini di acquisto dei mezzi, che sono soggetti a un'obsolescenza chiaramente nel giro di 5-6 anni normalmente per i chilometri che percorrono. Pompei, possiamo dire che in alcuni casi questo settore ha fatto un po' anche da apripista sulle tecnologie che poi abbiamo visto sui veicoli leggeri e sulle automobili, cioè è partito da lì la sperimentazione e poi dopo si è portata sulle automobili. Assolutamente sì, sono un banco di prove dei veicoli industriali, sia come stress, diciamo, delle strutture, perché comunque muoviamo sempre una quarantina di tonnellate, che immaginate sull'effetto sugli impianti frenanti, no? E sui sistemi di frenata automatica, che tipo di efficienza devono avere e di sicurezza devono avere nel momento in cui devono frenare le 40 tonnellate lanciate. Quindi, eppure, per esempio, sui sistemi di sicurezza e sull'active brake assist, che sarebbe il freno automatico del nuovo Actros, immaginate che ci sono circa 13 anni di sviluppi, e arrivare oggi a dei sistemi di frenata automatica completamente automatica, chiaramente è controllata da radar, da sistemi radar e da centraline molto sofisticate, che consentono anche di distinguere i pedoni. Quindi è uno sviluppo che poi è stato passato alle vetture, in realtà, capito? Quindi i track sono spesso degli apripista importanti per le nuove tecnologie. Torniamo all'idrogeno, mi stava dicendo quindi di questa tradizione di Mercedes su questa alimentazione, che si sposa appunto con la tecnologia Volvo per dare vita a quale tipo di prodotto? Allora, fondamentalmente il prodotto finale ancora chiaramente non è dato saperlo, perché ci sono chiaramente delle fasi di ricerca e sviluppo ancora in corso. Fondamentalmente è stato un segnale di grande dinamismo e lungimiranza, secondo me, quello di condividere con un altro costruttore molto avanzato lo sviluppo congiunto in una joint venture di una nuova tecnologia, che altrimenti sarebbe stata molto costosa da sostenere, specialmente in un tempo in cui siamo in momenti di crisi totale, lo sono tutte le aziende chiaramente, quindi è un importante sforzo economico. Quindi condividere le know-how già sviluppato da Daimler con un altro gruppo molto importante, che comunque ha interesse a sviluppare il know-how e a portarlo avanti, per la realizzazione appunto di mezzi a celle di idrogeno, e quindi poi avranno chiaramente bisogno di un'infrastruttura di rifornimento adeguata e specifica per questo, ma ci sono delle regioni, per esempio in Italia, tipo il Trentino Alto Adige, che già sono molto avanti da questo punto di vista. E ci sono già state diverse applicazioni sui bus, quindi sui trasporto persone, sui mezzi di trasporto persone, che anche i bus, diciamo, che spesso circolano nelle città, sono molto attenti alle nuove tecnologie. Quindi fondamentalmente questa joint venture dovrebbe essere creata entro la fine dell'anno. Vi posso dire che Daimler ha già creato una società specifica in cui far fluire tutto il know-how e le persone, diciamo gli specialisti di questo settore, quindi lo sviluppo dei veicoli a idrogeno, quindi le celle di idrogeno, e quindi verrà creata la cosiddetta società Daimler Truck Fuel Cell GmbH, che sarebbe la società tedesca, diciamo, che si occuperà di questo, e che verrà poi unita in una joint venture con un'analoga società del gruppo Volvo. Certo, ecco, al di là adesso degli accordi commerciali o strategici, tecnici, quanto credete voi in questo tipo di alimentazione per il futuro? Noi abbiamo visto in questi ultimi anni vari tipi di sperimentazioni sulle alimentazioni dei veicoli pesanti, abbiamo seguito tutto il dibattito sull'LNG, quindi sul gas liquefatto, ma il caro vecchio diesel però sembra reggere ancora bene in questo momento. Allora, il caro vecchio diesel, hai detto bene, è oggi arrivato a livelli di efficienza e di green, diciamo, come viene definito normalmente, quindi di sostenibilità ambientale decisamente alti, anche se spesso viene demonizzato sia sulle vetture sia su tutti i mezzi di trasporto, no? Però effettivamente immagina che i nostri truck oggi Euro 6 D emettono delle emissioni circa del 90% inferiori ai limiti stabiliti dalla direttiva Euro 6, quindi sono degli Euro 6 molto molto molto evoluti. Questa come premessa. Seconda premessa che farei è che il parco circolante ad oggi è composto di circa il 98% di veicoli diesel, specialmente quello vecchio. Quindi significa che il diesel è ancora molto in uso e gli utenti che hanno diesel sono abituati a questo tipo di carburante, che è un carburante che tra l'altro, se green, cioè se adeguatamente rispettoso dell'ambiente, consente livelli di efficienza molto alti. La terza premessa è che chiaramente le nuove tecnologie costano e necessitano di un supporto infrastrutturale adeguato prima di essere lanciate, perché è inutile che tu lanci un nuovo prodotto senza che poi gli utenti non possano trovare comodamente rifornimento e quindi debbano in qualche maniera limitare i propri viaggi in funzione dei distributori, per intenderci, dove fare rifornimento. Allora, a questo punto è importante, ci vuole un percorso di sviluppo sufficientemente lungo, diciamo una decade, per arrivare a regime con dei veicoli che siano a alimentazione all'idrogeno. Però l'idrogeno rappresenta sicuramente il futuro per i mezzi di linea, perché comunque è carbon free, quindi consentirà l'eliminazione dell'uso, diciamo, di carburanti di tipo fossile, e quindi è una tecnologia assolutamente pulita al 100%. Ha bisogno di infrastrutture che ci avranno chiaramente, richiederanno investimenti e uno sviluppo nei prossimi, diciamo, 5, 6, 7 anni, e quindi consentendo anche al prodotto di raggiungere il livello di sostenibilità, in questo caso economica, adeguata per consentire agli utenti di acquistarlo. Certo. Questo è un po' il percorso. Nel frattempo il diesel la farà da padrone, nel senso che secondo me oggi, malgrado venga demonizzato, comunque rimane un mezzo a condizioni di acquisto veramente interessanti, pulitissimo, perché non c'è una tecnologia oggi che consenta di realizzare con gli stessi diciamo vantaggi economici e consumi lo stesso prezzo, diciamo, di vendita che ottiene oggi un veicolo diesel. E comunque, quando si demonizza il diesel, non si può demonizzare l'Euro 6 B come se si trattasse di un sesso normale, perché, ripeto, le caratteristiche di un aerosesso di ultima generazione sono quelle di ridurre le emissioni, tutte le emissioni del 90%. Certo. E del resto, come abbiamo ascoltato anche nella prima parte della trasmissione di oggi, poi la demonizzazione del diesel ha portato come conseguenza un aumento della CO2 nelle città italiane, come ci ha raccontato l'ospite della prima parte della nostra trasmissione. Pompei, l'elettrico invece, noi abbiamo già un ampio utilizzo dell'elettrico puro nei veicoli commerciali, furgoni, qualche sperimentazione nei veicoli medi, quindi quelli già un po' più pesanti, tra virgolette, senza arrivare ovviamente ai cosiddetti TIR. Quale sarà l'impatto da qui ai prossimi anni di questa tecnologia sui veicoli leggeri commerciali? Fondamentalmente la tecnologia è già presente, quindi verrà messa in produzione regolare, diciamo, dal 2021 per noi, quindi manca ancora poco tempo, diciamo un semestre, e verrà dedicata principalmente chiaramente alla parte di distribuzione. Perché? Perché l'elettrico comporta come la capacità delle batterie come limite, no? Quindi le batterie hanno pure un peso importante e una gestione importante, richiedono anch'esse un'infrastruttura per essere ricaricate in maniera ottimale. Ora, è vero che i pesanti, normalmente le aziende hanno dei piazzali particolarmente ampi dove quindi sarebbe possibile installare adeguate colonnine di ricarica, però fondamentalmente l'autonomia di un elettrico rimane di per sé insufficiente per garantire la copertura, diciamo, del viaggio di linea come viene gestito, certo, per tanti trasporti. Quindi sarà chiaramente un'integrazione, potrà essere però utilizzata su tutti i mezzi che faranno uso prevalentemente cittadino, la distribuzione cittadina delle merci praticamente, o al limite intraregionale, appunto. Intraregionale, quindi comunque con un effetto dal punto di vista dell'inquinamento molto importante. Certo. Bene, termina qui anche questa puntata di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite, Maurizio Pompei, presidente AD di Mercedes-Benz Truck Italia. L'appuntamento con Strade e Motori torna come al solito sabato intorno alle 22. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.